dei 3000 siepi, vediamo che l'andatura è subito molto molto veloce e vediamo che va a prendere la testa, la testa. Vediamo cadere. Ma si è rimesso in gara? No, è ancora là. È ancora a terra. Ma si è rimesso in gara? No, è ancora là. È ancora a terra. Vediamo la disperazione. Più agili nel superamento delle siepi, delle barriere, i due inseguitori. Inseguitori. Con questa vittoria sorprendente. Ed ora vediamo la gioia incontenibile. Incontenibile. Eccoci qua, come ogni maledetta domenica, con 3000 siepi. Questa volta sono di nuovo in versione 1500 siepi, perché sono in trasferta a Torino e con la Gina avevamo pensato di far saltare la trasmissione, ma io stamane ho avuto un moto d'orgoglio e quindi sono andato presso gli studi di Radio Blackout a Torino, che ringraziamo, a prendere in prestito un microfono, e ora sono qua invece seduto nei miei studi casalinghi a registrare la trasmissione. Si tratta di una trasmissione indifferita, ma non troppo, nel senso che sono le 5:20 e la sto registrando ora e la mando dopo alle 6:15, quando termina la fuga del gatto, e quindi è un, insomma, non è una semi, una quasi diretta, ecco, perché comunque non posso sbagliare, non è che c'è montaggio, posso fare solo buona la prima. In questa puntata vi volevo cercare di intrattenere presentandovi alcuni film e spezzoni relativi a quei film, di frasi topiche, esistenziali, cruciali per capirne per apprezzarne la trama. E ho cercato abbastanza caso nella mia memoria, che appunto è casuale, nel senso che non mi ricordo niente, i film che mi potevano venire in mente, non sono collegati uno all'altro, non c'è un filo conduttore della puntata in realtà. Il primo che vi presento è il primo soltanto perché l'ho visto l'altro giorno e quindi me lo ricordo di più, gli altri li ho dovuti ripassare. Si tratta di una produzione Netflix, non è un filmone, ve lo dico, però non fa neanche così schifo. È la storia di un ragazzo caledone che gioca a rugby, che viene reclutato da una specie di piccolo boss della malavita locale per andare a giocare in Francia. Quindi gli viene messo in mano un biglietto d'aereo, viene spedito a Parigi con la implicita promessa che lui dovrà fare carriera nel rugby, e a un certo punto gli verrà chiesto di pagare il lesso, sostanzialmente di rendere i soldi con tutti gli interessi il suo, tra virgolette, benefattore. Il film si intitola Mercenaire, non l'ho ancora detto, me lo sono dimenticato. E il giovane è arrivato in Francia, vedrà che le cose non sono così facili, si dovrà scontrare con una vicenda, con i variati ostacoli di vivere da solo in un'azione che gli è ostile, nella quale in realtà non è minimamente inserito né si sente tale. E alla fine riuscirà comunque a trovare un ingaggio, inizierà a giocare a rugby in una squadretta francese di bassa categoria, e sarà aiutato da un proprio compaesano che aveva fatto questo percorso anni prima, e finirà quasi per sposare una ragazza del luogo, farà il buttafuori in un locale per integrare la paga bassa della squadra in cui gioca. Alla fine in qualche modo sistemerà anche la vicenda con il malavitoso locale. In realtà poi la sua vita francese andrà abbastanza in frantumi, però nel frattempo lui avrà fatto tutto un percorso di crescita e un film un po' di formazione. Cioè, questo parte bambino timido e complessato e torna, penso, nell'ottica dell'autore, poi alla fine del suo ciclo, diciamo, di vita parigina, torna alle proprie isole uomo. Lui infatti deciderà a un certo punto di lasciare Parigi, un po' deluso da questo ambiente, tornarsene a casa, sistemare le cose che aveva lasciato in sospeso, in particolare il complesso rapporto con il padre, che nel film è presentato un po' come uno stronzo. Questo rapporto si conclude in maniera abbastanza brusca, nel senso che il padre s'ammazza. Io vi racconto il finale senza problemi, perché sono uno stronzo tendenzialmente, e poi perché secondo me si capisce meglio il film se uno ve lo racconta, se no, cioè non so cosa raccontarvi di preciso, se poi non posso dire niente perché sennò ve lo spoilero. Quindi io ve lo spoilero, a me che mi frega. Nel film lui, diciamo, segna i suoi passaggi esistenziali con l'aca, essenzialmente quel canto di guerra e danza che avete visto fare agli All Blacks, che piace molto anche ai manager e a chi nella vita ha bisogno di autoesaltarsi per rendere in qualche fase della propria esistenza, e quindi lo decontestualizza e si rende ridicolo facendo una cosa che non c'entra un cazzo probabilmente con l'attività che lui svolge. Invece nel film è abbastanza pregnante questa danza, e diciamo si sposa bene con il percorso di crescita del ragazzo, del protagonista. E io non sono riuscito a estrarre dal film il pezzo che volevo, che era quello delle due acche che fa durante il film, però ne ho trovata una equivalente comunque bella, e quindi questa vi vado a proporre. Secondo film che vi volevo proporre l'ho scelto per affinità di sport, nel senso che è un film ambientato nel mondo del football, quindi abbastanza simile al rugby tutto sommato, anche se con regole diverse, un mondo completamente differente. È un film americano con Al Pacino, si tratta di Ogni maledetta domenica, e in realtà l'ho scelto perché più che altro per il discorso che l'allenatore fa negli spogliatoi a questa squadra, diciamo, di cui lui ha preso le redini come allenatore solo nell'anno, diciamo, del film. E tutto il film si si sviluppa questo rapporto contrastato di lui con la dirigenza della squadra, con il medico della squadra, insomma con la situazione che trova, ci sviluppa tutto il rapporto con i giocatori, con il giovane talento che però non c'ha voglia di impegnarsi ed è un po' diciamo la star che però non pensa al gruppo, eccetera. L'allenatore riuscirà in realtà a rimettere le cose a posto, perderà la finale dei playoff, però comunque farà una stagione del tutto dignitosa. Il film è abbastanza bello, se secondo me non è diciamo la peggio americanata che si trova in giro. In particolare il discorso dell'allenatore alla squadra, secondo me è interessante, non so se per la traduzione italiana che ne hanno fatto, diciamo che il discorso varia un po' tra le banalità che uno potrebbe dire alla propria squadra per incitarla e alcune cose abbastanza buffe, ad esempio la frase in cui Al Pacino dice sostanzialmente o vinciamo ora collettivamente, come collettivo, oppure ci spazzeranno via singolarmente. E secondo me è buffa questa cosa, può essere letta in tanti modi, e quindi vi vado a proporre questo discorso finale dalla voce di Al Pacino, però doppiata, quindi in realtà non è la sua voce. Non so cosa dirvi davvero. 3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Ha ragione. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Io Facciamolo. però non posso farlo per voi. Sono troppo vecchio. Mi guardo intorno, vedo i vostri giovani volti e penso, certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezz'età possa fare. Sì, perché io ho sperperato tutti i miei soldi, che ci crediate o no. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene. E da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte, ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il È football. vero, ha ragione. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo. Capite, no? Mezzo passo fatto un po' in anticipo, in ritardo, e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloci o troppo lenti e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto, sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto, ad ogni secondo. In questa squadra si combatte per un centimetro. È vero, è una guerra. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi. Per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa: in ogni scontro, è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. È in quei 10 centimetri davanti alla faccia. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. È il football, ragazzi. È tutto qui. Allora, vai, coach. Che cosa volete fare? Vogliamo! Terzo film, invece, è una produzione italiana degli anni 70, è un film con Paolo Villaggio, si intitola Sistemo l'America e torno, è un film del regista Nanni Loi, e secondo me è molto interessante perché è un tentativo italiano di raccontare la storia, diciamo la situazione dell'America negli anni 70 all'interno della comunità nera. Si tratta infatti di un film ambientato nel mondo del basket. C'è questo Paolo Villaggio che deve raccattare un giocatore nero di una squadra di basket americana che è stato comperato da una squadra italiana, e c'è il padrone, l'imprenditore capo di Paolo Villaggio, che l'ha spedito negli Stati Uniti, e tra le cose che gli dà da fare dice: ma pigliati questo e torna indietro con lui. In realtà nascerà da questo compito tutto un viaggio nell'America degli anni 70, perché questo giocatore di basket è inserito nella comunità nera locale e fa parte e in qualche modo milita o comunque ha amici nelle Black Panthers, vive un po' diciamo quell'area di ribellione di quegli anni, vive tutto su di sé, tutto il dramma della segregazione, del razzismo, della violenza poliziesca, e quindi il film si dipana in un lungo viaggio per gli Stati Uniti dove Paolo Villaggio imparerà qual è la condizione dei neri in America, come era negli anni 70, che probabilmente non è molto diversa da quella di oggi. E del film vi volevo fare ascoltare soltanto il finale, sempre perché sono uno stronzo che spoilerà tutto. E il film, diciamo, si conclude in maniera abbastanza, cioè in maniera drammatica, con la morte di questo giocatore che prima di andare in Italia gioca un'ultima partita con la propria squadra. Diciamo tutti i giocatori di colore di quella squadra alla fine iniziano una specie di alterco con il pubblico, in cui accusano sostanzialmente l'America bianca di trattarli come delle scimmiette ammaestrate, buone solo a giocare a basket, e quindi e per il resto di non avere diciamo alcun rispetto di loro come persone. E da questo nasce una specie di invasione di campo, un delirio, risse, insomma una situazione di caos nella quale il giocatore morirà. E Paolo Villaggio alla fine del film riprende l'aereo per tornare in Italia. Poco prima riceve una chiamata dal suo boss, nel quale questo personaggio gli dice sostanzialmente che hanno trovato un altro giocatore messicano e di mollare lì il giocatore diciamo il giocatore della squadra dell'Atlanta che era andato a recuperare, e che in realtà è morto. Quindi Paolo Villaggio ha un moto di nausea esistenziale per tutto questo, corre in bagno a vomitare e poi prende l'aereo. La scena finale è secondo me molto, molto bella, perché c'è questo Paolo Villaggio sull'aereo pieno di italiani per il suo ritorno a Roma, che chiede a uno che stava lì di fianco, che stava parlando diciamo, di sport, che risultato abbia fatto il Torino in quella domenica, e lui gli dice che il Torino ha perso, ha preso 1-0. Lui gli chiede se giocava anche Pulici, gli viene detto sì, che Pulici giocava e ha anche sbagliato un rigore. Pulici era un attaccante che giocò a Torino, appunto, nel Torino negli anni 70. Diciamo, il pianto di Paolo Villaggio non si riferisce chiaramente alla partita, ma a tutta la vicenda consumata con il proprio amico negli Stati Uniti. Quindi vi lascio all'ascoltare questo finale triste ma commovente del film Sistemo l'America e torno. Questa è l'ultima chiamata per Alitalia, volo 197 per Roma, imbarco immediato. This is the last call for Alitalia flight 197 for Rome. Will passengers board the plane immediately? Questa è l'ultima chiamata per Alitalia, volo 197 per Roma, imbarco immediato. This is the last call for Alitalia flight 197 for Rome. Will passengers board the plane immediately? Lo sa lei qual è il vero grande problema dell'America, Madonna sul ciuffo? È quello di farsi lavare le camicie! Domenica non si va a giocare? Alla Nerussa. Ah, ci sta anche la tradizione contro. Scusi? Sa mica cosa ha fatto il Torino? Ha beccato in casa, 1-0. E Pulici giocava? Per giocare giocava, l'ha sbagliato anche un rigore. Dica, signore, signore, ma che fa? Ma che piange perché Pulici l'ha sbagliato un rigore? Cambiamo completamente sport, passiamo alla boxe, il film che vi volevo consigliare è Million Dollar Baby, probabilmente l'avete già visto, ma se non l'avete fatto guardatelo perché è un bel film, è un film di Clint Eastwood e il pezzettino che vi volevo far ascoltare è sostanzialmente un pezzo del training, dell'allenamento della protagonista, nel quale si sciolinano però un po' di filosofia della boxe spicciola, il tutto in 4 comodissimi minuti. Destro, sinistro, destro, sinistro. Guarda solo come muove i piedi. Fa soltanto questo, continua a esercitare. Insegni come stare in piedi, come tenere allineate gambe e spalle. Per creare un pugile devi riportarlo al grezzo come fosse un pezzo di legno. Ti riposerai da morta. Vieni qui. Non basta dirgli di dimenticare tutto quello che sa, deve liberarsene completamente, dentro. Sfinirlo al punto tale che ascolterà solo te, soltanto la tua voce. farà quello che gli dici di fare e nient'altro. Muovi questi piedi, spostali. Avanti su, fammi vedere. Mi fai vedere come stare in equilibrio e come farlo perdere all'avversario. Non ti abbassare, devi guardarmi. Gancio destro e portalo fino qua. Come essere veloci sfruttando l'elasticità dei piedi. E come piegare le ginocchia quando fai partire un diretto. Come non permettere all'avversario di farti arretrare e fargli passare la voglia di inseguirti. E poi ricominci da capo un'altra volta e ancora e ancora e ancora, finché non gli sembrerà di essere nato coi guantoni. Ci basta così. Bel lavoro. Brava ragazza. E ora ci avviamo verso la conclusione. Iniziamo a parlare di sport acquatici, nello specifico del surf. Il film che vi volevo porre alla vostra attenzione era Un mercoledì da leoni. Anche questo probabilmente l'avrete già visto, però vi volevo far sentire due estratti che magari non ricordate. Sono uno quello che descrive la mareggiata del 68 e l'altro quello che descrive la mareggiata del 74. Sono due pezzi lirici abbastanza topici di tutto il film, a me piacciono molto e quindi ve li ripropongo in sequenza, prima 68 e poi 74. La grande mareggiata da nord, inverno 1968. Quell'inverno le onde furono fredde, irruenti, pericolose. Fu una burrasca poderosa che spazzò la costa nel cuore dell'inverno. Noi saltavamo le lezioni per andare a Dark Point ad assistere al frangersi di quelle montagne d'acqua. Dal largo veniva un vento teso che polverizzava la cresta delle onde. Era una distesa immensa di spuma e in acqua si sentiva il morso del freddo. Ma ora tutto sembrava appartenere al passato. Il cambiamento non era nella spiaggia, nel vento, nelle onde. Il cambiamento era nelle persone. Qualcuno si era sposato, altri si erano trasferiti nell'interno, altri avevano iniziato altre attività. Qualcuno era morto. La gigantesca mareggiata della primavera del 1974. Da dove verrà il vento? Dicono che sia il respiro di Dio. Chi dà veramente forma alle nuvole? Cos'è che causa questo gigantesco perturbamento di masse d'acqua? Dove ha origine? Questo era il gran giorno. L'avevamo aspettato tanto. L'ultimo film di cui volevo parlarvi è un film francese, si intitola Le Grand Bleu, è un film di Luc Besson, parla della storia più o meno romanzata della rivalità tra Jacques Mayol e Enzo Maiorca, due apneisti, l'uno francese e l'altro italiano. È da sottolineare che questo film esce in Francia, ma non esce in Italia se non 10 anni dopo, perché Enzo Maiorca, che nel film era interpretato da Jean Reno, dice che il proprio personaggio, nel quale chiaramente si era riconosciuto, nel film si chiama Enzo Molinari, però insomma è una differenza minima, e non rendeva bene la sua personalità e anzi incarnava degli stereotipi sull'italiano così come è visto dal resto del mondo, come uno smargiasso, spaccone, pieno di sé, eccetera. Il fatto che poi Maiorca non fosse questo, io non ci metterei la mano sul fuoco. Maiorca era un personaggio che è stato anche noto nel mondo politico, è uno aderito alla svolta di Fiuggi, un personaggio di destra, ha militato anche in Alleanza Nazionale, è morto l'anno scorso a novembre, e quindi non lo so. Il film comunque in realtà è molto bello, se non altro per la fotografia subacquea veramente fatta bene. Luc Besson non fa schifo come regista, ecco. E il personaggio di Jacques Maillol, a me tra i due, tra Maiorca e Maillol, in questa rivalità che in realtà io ho imparato a conoscere da piccolo leggendo un libro alle elementari che si intitolava proprio, mi sembra, La linea blu, e che racconta appunto di questa avventura, di questa sfida che i due si lanciavano da un capo all'altro del mondo, e scendendo giù nei mari che andavano dall'isola d'Elba alle Bahamas, a insomma tutte queste questi luoghi dove si scende in profondità notevoli. E diciamo che da me è sempre stato più simpatico Jacques Maillol. In realtà era un personaggio molto buffo che nella vita ha fatto mille mestieri, ha fatto il pianista, il taglialegna, si è dato alla ricerca dei tesori sott'acqua, un personaggio insomma strambo, che in realtà si toglie la vita intorno al 2000, mi sembra, intorno al 2003-2004, all'inizio degli anni 2000, si impicca nella propria casa all'isola d'Elba e conclude un po' così la sua vicenda esistenziale. Del film vi faccio sentire una specie di montaggio che non ho fatto io, che ho trovato in rete, tra un pezzo della colonna sonora e alcune frasi del film. Aiuto! Roberto. Yes. Io parlo. What age we have a say? How does it go again? I don't remember. Well, what's that supposed to mean? All right. How much longer can he do that? My brother is a world champion. Sign. We just met a few minutes ago. In the lake? No, in the hut. Welcome to Peru. El próximo paradero es bien el lago del demonio. Roberto. What? Roberto. What? Roberto. Che voglio? Roberto. Ma Dio santissimo, what? Mio palmo. Exactly, do you want to know? Everything. Everything about what? About everything. Mamma mia. As I was telling you earlier, I am the world champion free diver. Some people say the most virile sport in the world. One has to admit that when you see those men diving head first in that deep blue sea, our muscles contracted in one superhuman effort. What? Mama? Dove?